Dialogo trentunesimo. Raccontò Bahaj bin Hakim. Mio padre mi disse che suo nonno raccontò. Domandai all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, chi devo onorare in primo luogo? Mi rispose tua madre. Domandai, e poi chi? Mi rispose tua madre. Domandai, e poi chi? Mi rispose tua madre. Domandai, e poi chi? Mi rispose tuo padre, poi i tuoi parenti stretti e poi gli altri parenti.